Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La notte è silenziosa e nel suo silenzio si nascondono i sogni. Khalil Gibran. E oggi andiamo a caccia di sogni. Buongiorno da Nicoletta. Nella puntata di oggi cercheremo di capire quali sono i meccanismi del sogno e attraverso quali modalità nasce, ma indagheremo anche sulla sua funzione. A cosa serve sognare? Cosa succede al nostro cervello mentre noi siamo nel mondo dei sogni? E poi dove vanno a finire? Sono file scappati dall'archivio della memoria o desideri repressi? 800 24 0024 per raccontarmi. Un vostro sogno ricorrente, un sogno che vi ha turbato o spaventato, un sogno che non avreste voluto aver mai fatto, un sogno che avreste voluto fare ma purtroppo non mi è mai venuto, un sogno che vi hanno raccontato. Ciao Patti. Oh, è proprio uguale come nel mio sogno. Incredibile. Cosa? Tu Luca che litigavate, l'ho sognato questa notte, solo che nel sogno lui tornava indietro e ti diceva: Olmo, ritirati, non sei abbastanza duro per fare politica. Olmo, ritirati, non sei abbastanza duro per fare politica. Oh, guarda che nella mia famiglia abbiamo tutti un dono. Mio zio è il mago dell'uncinetto, mia nonna è imbattibile, ruba mazzetto, io sono quella dei sogni premonitori. Oh. Sogni premonitori non esistono, Patti, sono solo coincidenze. Se lo dici tu. Anche se i sogni non sono in grado di prevedere eventi futuri, tuttavia la maggior parte di noi li ritiene, cari amici, significativi, logici o bizzarri che siano. Molti infatti considerano i sogni proprio come delle guide preziose, capaci di fornire informazioni importanti sul sognatore e sul mondo che lo circonda. Vi sembrerà curioso, ma è rigorosamente studiato e analizzato dagli psicologi di Harvard in una bella ricerca di cui parla Salute 24 e Salvatore Patriarca, responsabile editoriale del portale, in linea con noi. Ciao Salvatore. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che dice allora questa ricerca? Ma questa ricerca conferma in qualche modo quello che è l'atteggiamento che tutti noi abbiamo rispetto ai sogni. Sono delle guide per noi, cioè probabilmente non sono delle premonizioni che vengono dal futuro, però sono delle proiezioni verso il futuro, sono in qualche modo le malespressioni dei nostri desideri, delle nostre paure che guidano, questa è la parte più interessante, tutto sommato, le nostre decisioni. Cioè, dai sogni emerge quello che in qualche modo noi tendiamo poi a decidere, quelle che tendono a essere le scelte che nel corso della giornata, nel corso delle settimane future tendiamo a prendere. Quindi è logico, chi ha la fortuna di ricordare i sogni al risveglio bene o male ci ripensa, e tante volte noi raccontiamo i sogni ad un amico e chiediamo: chissà che cosa avrà voluto dire. Esattamente, e avrà voluto dire probabilmente è l'espressione di quello che è il nostro stato d'animo, di quella che è la nostra cura e di quella che in qualche modo è la proiezione della nostra esistenza in quel momento verso una determinata direzione. Cioè, per esempio, questo esempio che viene fatto durante questo studio appunto degli psicologi di Harvard, che se si sognava poco prima di intraprendere un viaggio un incidente, si tendeva a prendere più la macchina piuttosto che l'aereo, o probabilmente si aveva più paura di un incidente aereo invece di un attacco terroristico, e quindi si sceglieva una modalità di viaggio diversa. Allora, sono tutti degli strumenti che non sono appunto degli anticipatori della realtà, ma in qualche modo formano la nostra realtà quotidiana. Salvatore, che cosa hai sognato stanotte? Ho sognato un sogno strano, c'era un vecchio con la barba che molto similmente assomigliava a Freud, e che mi metteva sul lettino e mi chiedeva che cosa avevo fatto durante la giornata. Allora, se ci ascolti forse potrai trovare una risposta per chi, invece che sognare, Freud vuole leggerlo. Basta andare in edicola. Il Sole 24 Ore presenta Freud, la più completa collana dei principali saggi, lezioni e pensieri del padre della psicoanalisi. La collana si è aperta giovedì scorso, 13 ottobre, con l'interpretazione dei sogni, al prezzo speciale di 4,90 centesimi di euro. I numeri successivi saranno in edicola ogni giovedì a 9,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. E vi anticipo già, la prossima uscita sarà la psicopatologia della vita quotidiana. Salvatore, grazie per essere grazie stato con noi. Un saluto a tutti. Buona giornata. Io sono stanca, capisci? Stanca! Io lavoro alla mia età, ma guarda le altre madri invece! Ah, se avessi un figlio che... Se avessi un figlio cosa vorresti dire? Un figlio che guadagna, che è pieno di soldi, un borghese! Io sono diverso, a me i soldi non interessano. Io sono un poeta, uno scienziato, un medico. Io sono un genio, tu sei la madre d'un genio. Ma quale genio? Basta. Io ho scoperto l'inconscio, io sono Sigmund Freud. Freud è morto 40 anni fa. No! No, es ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Er ist nicht gestorben! Avete riconosciuto il film? Chiamateci 800 24 00 24. Il primo ascoltatore che ci chiamerà con la risposta giusta, con il titolo esatto, riceverà a casa l'interpretazione dei sogni di Freud. Però attenzione, se non avete le idee chiare, nel corso della trasmissione ci sarà un altro indizio. Intanto saluto gli ospiti di oggi. In linea con noi la dottoressa Giuliana Capannelli, docente dell'Istituto Freudiano di Roma, è una scuola di specializzazione in psicoterapia, è responsabile della FIDA, la Federazione Italiana Disturbi Alimentari di Ancona. Dottoressa Capannelli, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e ringrazio molto dell'invito. A tutti auguro una buona giornata. Grazie. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Quindi un neurologo e una psicanalista che ci accompagnano a scoprire i misteri del mondo onirico. E dottoressa Capannelli, parto da lei, perché la psicoanalisi, prima ancora delle neuroscienze, si è occupata di sogni e ha usato proprio il sogno per dimostrare la forza direi determinante dell'inconscio. Esatto, direi anzi che non solo la psicoanalisi si è occupata del sogno, ma che la psicoanalisi nasce con il sogno. Infatti si può direi proprio dire che non c'è psicoanalisi senza analisi dei sogni. In un certo senso potremmo anche dire che la psicoanalisi stessa è un sogno. E comunque questo bellissimo testo che voi avete pubblicato di nuovo, l'interpretazione dei sogni, che è datato 1900, segna proprio l'inizio della teoria della tecnica psicoanalitica propriamente detta. E per entrare un po' nel merito, potrei dire che Freud considera il sogno non un mero processo somatico, ma proprio una formazione psichica che ha densa di significato. E dunque il sogno sarebbe della stessa natura delle nostre esperienze psichiche della veglia, con la differenza però che invece che parlare per immagini verbali, parla per immagini visive. E come si diceva anche prima, nel sogno vengono espressi i desideri, che sono anche i desideri più reconditi, desideri che per venire alla luce devono in qualche maniera essere decifrati. E se posso farci dare un po' di quelle che potrebbero essere le caratteristiche principali del sogno secondo la psicoanalisi sono proprio queste tre, poi magari porto qualche piccolo esempio. Uno, direi il sogno, la realizzazione di un desiderio rimosso, e in questo senso potrei portare degli esempi molto semplici laddove il sogno traduce esattamente il desiderio del sognatore e mostra apertamente il suo contenuto, come per esempio ci sono, non so, persone che soffrono di disturbi alimentari, quali l'anoressia, che si sottopongono quotidianamente a restrizioni e digiuni e possono pagare il loro desiderio di cibo la notte, sognando di mangiare a volontà il cibo che durante il giorno si proibiscono. Poi ci sono ovviamente degli esempi molto più complessi in cui il desiderio espresso nel sogno viene trasformato e quindi per arrivare a capire quello che il sogno vuol dire c'è bisogno di tutto un lavoro di interpretazione, che sono poi la maggioranza dei sogni che noi facciamo e anche quello che noi come psicanalisti siamo abituati ad ascoltare, certo, e analizzare sul lettino. Il secondo punto fondamentale è che il sogno è un messaggio da decifrare, quindi direi come una sorta di geroglifico, dice Freud, un rebus, quindi qualcosa che è dell'ordine della scrittura che va tradotto e riportato al suo significato originario. Questo è più difficile. Questo è un po' più difficile. Direi che un esempio abbastanza semplice è quello che ci può ritornare, non so, le faccio un esempio di una mia paziente che sogna che deve fuggire, si deve nascondere, va in un giardino in cui ci sono delle siepi, ma in una non riesce a entrare perché è impenetrabile, in un'altra non riesce a entrare perché è troppo rada, non la nasconderebbe, un'altra ancora è troppo bassa. Quindi direi che ognuna di queste tre parole, impenetrabile, rada e bassa, vanno riportate nel contesto originario e interpretate all'interno di quella che è la relazione del soggetto. Quindi è una lingua a sé che va interpretata a partire dal contesto. E poi l'ultimo punto è che il sogno è una formazione dell'inconscio. e quindi è attraverso il sogno che possiamo cogliere quello che normalmente sfugge alla coscienza. Il sogno in quanto tale ci dà una traccia del funzionamento dell'inconscio che però deve essere quello del sognatore, certo, e non per esempio quello dell'analista o di un interprete esterno. Per questo è anche molto difficile attribuire un significato generale o generico ai sogni o ai simboli contenuti, perché, dice Freud, è solo attraverso le associazioni libere che intervengono nel momento in cui il sogno si racconta che si può rintracciare qualcosa della verità del sogno, e nessuna interpretazione esterna può, diciamo, l'interpretazione esterna può rischiare di snaturarne il significato. Quindi, cari amici, fuori i vostri sogni, 800 24 00 24. La dottoressa Capannelli ci ha dato una lettura del sogno da psicanalista, e mentre il professor Barbanti la lettura del sogno dal punto di vista delle neuroscienze ci darà sicuramente un altro significato. Professor Barbanti, l'interesse delle neuroscienze per i sogni inizia negli anni 50 del secolo scorso con gli studi sul sonno REM. Quindi noi, professore, possiamo dire che il sogno è una componente importante del nostro sonno? Sì, anzitutto ben trovata Nicoletta. Il sogno è una parte essenziale della nostra vita. A cosa serve? Dirò in maniera piuttosto brutale. Serve per apprendere le emozioni e per la memoria procedurale, per la memoria del come si fanno le cose. Questo ovviamente non è in contrasto con quanto sapientemente diceva la dottoressa Capannelli. Il sogno avviene nella fase REM, però adesso le idee sono un po' più chiare, e direi la divisione un po' meno radicale. Nel sonno non REM comunque il nostro cervello pensa, lavora e forse in minima parte sogna. Cioè il sogno dimostra che noi non smettiamo mai di pensare. Sognare è esattamente quello che fa una mamma di famiglia, cioè sarà qualcuno in ascolto, quando il figlio va a dormire, che incomincia a svolgere le sue attività in maggiore libertà. La meraviglia del sogno è che è un esempio di pensiero autarchico, cioè io mi disconnetto dall'ambiente esterno, e questo è anche affascinante da un punto di vista chimico. Le sostanze cerebrali responsabili dei nostri rapporti con l'esterno vanno in letargo, serotonina, noradrenalina, e rimane alto il livello dell'acetilcolina. Ecco quindi che il sogno, per il neurologo, dal nostro punto di vista, è la manifestazione di un continuo pensiero, un pensiero, se vogliamo, anche più raffinato, più rivolto a se stessi, che avviene con un mirabile distacco dall'ambiente esterno, ma ha quattro caratteristiche fondamentali. Uno, non è controllabile, magari sognare ciò che vogliamo. Due, non ne abbiamo la consapevolezza ed ecco il contenuto allucinatorio. Tre, è ricchissimo di emozionalità, ma badate, sfido chi è al telefono, abbiamo provato gioia, sorpresa, ansia, paura, ma raramente tristezza o depressione. Questi stati d'animi così complessi sono più rari. E poi l'alterazione della memoria. Il sogno sembra fatto apposta per essere dimenticato, anche quando lo ricordiamo, si scioglie come neve al sole. Il psicanalista direbbe probabilmente è l'estrema difesa per nascondere nella vita cosciente ciò che è emerso. C'è anche un correlato chimico che non mi sembra il caso di specificare, lasciamo l'aspetto comunque psicologico, romantico, affascinante e verosimilmente anche plausibile per i nostri ascoltatori. Sesso. Maschio. Famiglia. Figlio. Divorzio. No. Professor Freud, sono il dottor Jung. Io ho soltanto aperto una porta. Spetta ai giovani come lei attraversarla. È la persona che cercavi per il tuo trattamento sperimentale. Mi parli della prima volta in cui è stata picchiata da suo padre. Mi piaceva. E come sta la sua piccola paziente russa? C'è stato un miglioramento straordinario. La ragazza è vergine? Sicuramente. Se mai vorrà prendere l'iniziativa, io abito in quel palazzo. Perché tanti affannosi sforzi per soffocare i nostri più elementari istinti naturali? Mai reprimere nulla. Voglio che tu mi punisca. Freud sul grande schermo in questi giorni a Dangerous Method, ma non è la prima volta che il padre della psicoanalisi fa parte del cast di un film. In linea con noi Marta Cagnola. Marta, ciao, benvenuta. Ciao Nicoletta, voi mi trovate sempre in situazioni stranissime. Di solito mi chiamate mentre sto facendo le pulizie. Invece oggi? Adesso sto andando alla conferenza stampa, ma per Nicoletta mi fermo un attimo e chiacchieriamo di cinema, che mi piace sempre. Poi questo tema è bello, perché ci sono, io ho fatto un po' di ricerche come al solito, e sai che ci sono almeno 60 film, caspita, secondo l'Internet Movie Database, con protagonista Freud. Mica male, sono veramente tanti. Io direi che il primo film interessante è il 1962, Freud, Passioni segrete di Johnny Huston. Freud poi non è mica male, perché Montgomery Clift, che a me piace particolarmente. Anche a me, noi abbiamo i gusti simili. Sì, ci piace. Poi invece andiamo nel 1984, io ti confesso, questo film non l'ho visto, The Secret Diary of Sigmund Freud di Danford B. Green. Sì. Niente, questo mi manca. Poi invece la figura di Sabine Spielrein è in Prendimi l'anima di Roberto Faenza, in tanti l'avranno visto, è piuttosto recente, 2002. Poi c'è quel film lì che non diciamo, ma io l'ho riconosciuto, io potrei vincere, ma ahimè sto andando, non posso chiamare, ma io l'ho riconosciuto, anche perché l'attore è straordinario. E poi c'è un film del 1983, delizioso, sono le commedie che io preferisco, Un incurabile romantico, sì, di Marshall Brickman. E c'è Dudley Moore che si innamora di una paziente, ma c'è Sigmund Freud in persona che si manifesta e gli dà consigli e sconsigli, giustamente, perché insomma si sa che è una cosa un po' sconveniente. Poi una curiosità, in questi giorni sono usciti due film italiani, due commedie, entrambe hanno Freud come protagonista in alcune scene. Dai, tutte e due. Sì, tutte e due, c'è lo stesso ritratto di Freud appeso a un muro, e a lui si rivolgono i protagonisti. Uno è Vincenzo Salemme, Imbacciato dalla fortuna. Praticamente lui è un appassionato di Superenalotto e un'amica psicanalista cerca di convincerlo a smettere, insomma, in pratica provando su di lui le arti che ha imparato a scuola, all'università, insomma, ovviamente è una commedia. E il secondo è Ex amici come prima dei Vanzina, Freud sempre in corniciato, lo psicanalista in realtà è un paziente che si trova per caso nello studio, ma siccome è una commedia, è ovvio, finisce bene, diciamo che l'analisi ha funzionato comunque. Allora, i film dedicati quindi alla psicanalisi sono tanti, Marta, per chi volesse saperne di più, hai un sito da suggerirci? C'è un sito utilissimo che è cinemaepsicoanalisi.com, lì ci sono anche tutti i film che hanno la psicanalisi proprio nell'argomento del film, è particolarmente interessante. E quindi così abbiamo dato un aiuto ai nostri ascoltatori che sono stati invitati a indovinare il nostro indizio. Il primo ascoltatore che chiama l'800 24 00 24, Marta Cagnola vi ha un po' messo nella strada, devo dire che non vi ha aiutato molto, ma confido nella vostra cultura cinematografica. Grazie Marta, buona conferenza stampa. E noi dal grande schermo torniamo a parlare dei nostri sogni. 800 24 00 24. Prima però, come sempre, mercati e meteo e il mio invito quotidiano di andare a fare un salto sul nostro Daily Lab per imparare a prendervi cura della vostra salute. Essere e benessere. Puntata dedicata al racconto. Raccontiamo i nostri sogni. Francesco da Pavia, buongiorno a lei, benvenuto. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno. Come dicevo prima alle colleghe del centralese del... Che ringraziamo perché fanno un lavoro prezioso. Francesco, che cosa ce le racconti? Sì? Ci provo, perché è proprio una cosa fresca di stamattina, senso anche di rabbia, tra virgolette, di ansia, che ne so, compreso. Nel senso che ho sognato di andare in un posto di un ristorante dove a volte mi capita di andare, dove diciamo non sono dei maestri a livello di, diciamo, ci vado volentieri, però non sono velocissimi, diciamo, ecco, non sì, è che sono voglio un po' lenti, ecco. Però ecco, in certi momenti, ecco. E niente, dovevo andare in toilette, e praticamente all'interno della toilette c'era della sostanza liquida da toilette, diciamo, e non era acqua. E allora lì ha cresciuto ancora quel senso di rabbia, perché dico adesso già... Aspetto, la toilette è sporca, qua non ci vengo più. E cosa ha fatto? Poi è successo questo e con questo stato d'animo sono uscito. Nel mentre che uscivo dalla porta mi sono svegliato e mi sono svegliato per venire al lavoro. Quindi insomma, non so se tornerà presto in questo ristorante. Professor Barbanti, un neurologo che cosa raccoglie dalla descrizione di un sogno? E poi passiamo alla dottoressa Capannelli, che intanto immagino si sia appuntata qualche nota. Beh, intanto ricavo forse in maniera poco romantica e molto pratica il fatto che il 50% del contenuto dei nostri sogni è un contenuto possibile ma non realistico nella vita del soggetto, un 20% si calcola che siano estremamente bizzarri e un 30% quelli di banale, così ordinaria amministrazione della vita quotidiana. L'altro aspetto importante, Francesco parlava di aspetti visivi, nei sogni noi vediamo, ovviamente si tratta di fenomeni quasi allucinatori, sentiamo in un 60% dei casi, ma gusto, tatto, olfatto e dolore solo nell'1%, e quindi il disgusto che ha provato Francesco era un disgusto prevalentemente visivo, le altre modalità sensoriali invece silenziate. E la dottoressa Capannelli probabilmente ci darà qualcosa di più sul valore simbolico nascosto. Dottoressa Capannelli, le passiamo la palla. Sì, benissimo. Beh, certamente questo sogno è abbastanza... evidenzia in maniera abbastanza chiara come ci sia questo desiderio represso, direbbe Freud, di reagire di fronte a una situazione quale quella quotidianamente o settimanalmente o gli capita di incontrare in questo ristorante, che diceva l'ascoltatore non mi piace molto andarci perché il servizio è lento, eccetera, eccetera, e quindi trova nel sogno un modo per avere la forza in un certo senso di reagire quando nella realtà questo gli è vietato dal buon comportamento che normalmente tutti noi teniamo anche in situazioni un pochino sconvenienti per noi. Poi ci sono questi elementi diciamo legati al bagno, legati a delle situazioni che normalmente per la psicanalisi richiamerebbero un ambito già immediatamente sessuale, però potremmo anche dire che si sa anche da un punto di vista diciamo che lega di più la psicanalisi alle neuroscienze e alla neurofisiologia, il fatto che spesso noi sogniamo per esempio di dover andare in bagno perché abbiamo effettivamente, no, uno stimolo in questo senso durante la notte, e il sogno facendoci sognare queste cose ci ripara anche dall'esigenza di svegliarci e di dover andare a fare le nostre cose. Certo, in questo senso il sogno porta consiglio. Mirella dalla provincia di Bergamo e poi Nadia da Treviso, buongiorno intanto alle mie ascoltatrici. Mirella. Buongiorno, io vorrei sapere perché non ricordo mai i sogni che faccio, ricorderò un sogno due all'anno ed è sempre stato così da che io mi ricordi, adesso ho 48 anni, è sempre stato così. Nadia da Treviso, buongiorno a lei e intanto saluto Mirella. Nadia, lei se li ricorda o non se li ricorda? Allora, io i sogni me li ricordo spesso, sogno tantissimo, e però telefonavo per il mio sogno più ricorrente, il mare. Io sogno il mare in tutte le salse, ogni paesaggio, mari burrascosi, tranquilli, costiere bellissime. Vorrei capire perché il mare. Ecco, tutto qui, grazie. Allora, iniziamo dal ricordo, dal sogno di Nadia, il mare, ma lei ci aggiunge un sogno ricorrente. Professor Barbanti, che spiegazione, perché ci sono delle persone che si ritrovano a sognare spesso lo stesso sogno? Ma se devo dare la spiegazione da neurologo del sogno, ripeto, rischio di essere un po' spoetizzante, però non perdo in praticità e cerchiamo di incastrare anche questo aspetto. L'idea della fisiologica, del come mai si sogni è... permettetemi un paragone, perché una parte del nostro cervello che si chiama ponte incomincia come in un concerto rock a far partire una sorta di ritmo verso le stazioni cerebrali più alte, quelle visive del movimento, come un percussionista. il cervello, che in questo caso rappresenta il cantante, vi crea sopra un motivo, pescando nella propria tradizione, nella propria formazione, emotività, memoria. Qui ci aiuterà la dottoressa psicanalista al telefono, ma l'esecuzione viene fatta poi con la partecipazione del pubblico, e lo diceva lei prima, cioè le influenze ambientali, come quindi un pubblico che fraseggia con la star e ne condiziona l'esecuzione. I sogni ricorrenti potrebbero essere l'equivalente del radicamento formativo, culturale ed emotivo del cantante, nel nostro esempio, cioè del cervello, per motivi di vita quindi vissuta più o meno consapevoli. Dottoressa Capannelli, il mare. Devo dire che molti ascoltatori mi scrivono al 349-238-6666, sogno il mare in tempesta, il mare burrascoso, sogno di fare il bagno in mare più volte. Come mai ritorna questa immagine? E poi un altro dettaglio ricorrente, un aggettivo che fa la differenza, perché sognare, sapendo già un po' come va a finire il sogno, in alcune persone mette una sorta di ansia, di preoccupazione, a meno che il sogno non sia particolarmente bello. Sì, infatti i sogni ricorrenti effettivamente possono essere rassicuranti o angoscianti, dipende appunto da come noi sappiamo che vanno a finire, e normalmente sono anche quei sogni in cui rimane qualcosa di risolto, cioè c'è sempre, diciamo, siamo sempre di fronte a una medesima questione, non necessariamente problematica, che però è quando sono delle situazioni problematiche, sono quelle che noi non riusciamo a superare, un po' come stare di fronte a una porta di cui non abbiamo la chiave. Per quello che riguarda il tema del mare, come qui ci vuole l'interpretazione, vero? Quello che lei riferiva, bisogna anche un po' interpretare il significato. Ci sono molti studi e anche ricerche, approfondimenti sul alcuni elementi in particolare, quindi simbolismi legati all'acqua piuttosto che al fuoco, piuttosto che al viaggio o ad altre tipologie di sogni che ricorrono un po' in tutte le persone, però vanno sempre contestualizzati nella singola individualità. Certamente, se vogliamo dare un'interpretazione veloce rispetto al mare, è qualcosa che avvicina l'idea della madre, perché è da lì che noi siamo nati in qualche maniera, no? L'acqua è qualcosa che ci contiene, ci avvolge, certo. Sì, e quindi in qualche modo avere un sogno ricorrente su questo vuol dire che c'è una situazione che, positiva o negativa che sia, diciamo, ci ha a che fare con la madre, il rapporto che abbiamo con la nostra madre. Una madre simbolica, certo. Intendiamo, perché la madre può avere tante accezioni. Barbara da Roma, prima delle informazioni sul traffico, se mi promette di essere rapida. Barbara, buongiorno. Sì, Nicoletta, buongiorno, grazie. Ma buongiorno, quante ragazze all'ascolto, mi fa piacere. Grazie Barbara. Del nostro benessere. Ah, bene, mi piace molto. Allora Barbara, ha fatto un bel sogno? Sì, stanotte veramente non lo ricordo, però ne ho uno anch'io ricorrente che non è proprio un bel sogno perché mi angoscia, ed è un sogno relativamente agli esami di maturità, cioè sogno di dover ridare gli esami di maturità con il nuovo ordinamento, quindi portando tutte le materie. Invece noi l'abbiamo scampata, non portavamo tutte le materie, anche noi. Meno. E la cosa che mi stupisce è che lo stesso sogno capita anche a mio padre, con la stessa sensazione, quindi la cosa mi lascia un po' perplessa, mi colpisce insomma. Allora, chi di voi sogna l'esame di maturità? Anch'io lo sogno in alcuni momenti particolari, spesso quando ho bisogno forse di conferme. Io so, me lo aspetto, dico sta a vedere che mi sogno di nuovo l'esame di maturità. Essere e benessere. Zurigo 34452. C'è il professor Carl Gustav Jung. È il professor Freud che lo chiama da Vienna. Ah, è lei, professore, le passo a mio padre, arrivederla. Allo Gustav, wie geht's dir? Hast du meinen Brief gekriegt? Volevo dirti che mi ha scritto ancora una volta Stanley Hall da Worcester. Vuole che si vada insieme in quell'università a fare delle conferenze di psicanalisi. Sono gentilissimi, ci ospitano, squisiti, e non sanno che gli portiamo la peste. Sì, lavoro molto. Sto lavorando molto, soprattutto su mia madre. Sì, vivo ancora con lei. Per poco. Autoanalisi, Gustav. Qui si fa dell'autoanalisi. E prima di parlare di esame di maturità, dalla regia e Laura Vanossi, che in redazione e anche in assistenza, mi danno la linea a Massimiliano da Milano. Massimiliano, buongiorno. Sì, pronto, Nicoletta. Sì, buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Ecco. Mi scusi la voce, ma sono un po' raffreddato. No, dico che lei ha una bella voce, a me piace. Ah, grazie. È un po' nasale perché lo sbalzo termico di questi giorni mi ha provocato un po' di raffreddore. Eh sì. Dunque, il film è Sogni d'oro di e con Nanni Moretti del 1981. Bravissimo, Massimiliano. Beh, nonostante la mia relativamente giovane età, è un film che conosco perché l'ho visto varie volte. C'è stato un periodo in cui ero, come dire, un assiduo frequentatore della cinematografia di Nanni Moretti. E quindi ho subito riconosciuto dalle prime battute il film, proprio perché l'avevo visto varie volte. Tra l'altro è un film molto, molto, molto esilarante, ecco, dal punto quindi di vista. Quindi Massimiliano lo consiglia, ai nostri ascoltatori. Sì, consiglio a chi magari vuole conoscere anche, come dire, il Nanni Moretti delle origini, perché non è proprio un film sulla... Non è proprio un film sulla psicanalisi, è un film più che altro che prende anche un po' spunto, ci sono vari omaggi, ecco, anche a Stanley Kubrick in quel film, quindi è un film magari un po' più che altro su quella che è, magari, non so, c'è anche un po', c'è anche un omaggio a Truffaut, quindi un film da vedere. Intanto complimenti Massimiliano, e riceverà a casa l'interpretazione dei sogni. Grazie Massimiliano. Dottoressa Capannelli, l'esame di maturità. Gli esami di maturità sono uno di quei sogni classici che effettivamente ricorrono, in particolare direi quando non ci si sente un po' all'altezza di alcune situazioni, e quindi, come sottolineava lei, possano... Allora, come si dice, ci ho preso. Abbiamo bisogno di essere rassicurati e sogniamo qualcosa che abbiamo già superato, si spera brillantemente. Qualcuno brillantemente, qualcuno deve invece rimettersi alla prova perché magari quella prova non è stata soddisfacente e quindi cerca di superarsi attraverso la ripresa ricorrente del sogno. Alessandra, buongiorno da Milano. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei, Alessandra. Io ho due tipologie di sogni che mi danno sensazioni completamente diverse. La prima è di spiccare il volo e di nuotare a rana per aria, quindi di vedere tutto dall'alto. Bello però! E il secondo invece è di accedere a dei luoghi attraverso dei tunnel, degli spazi molto, molto angusti, molto stretti, addirittura quasi il mio corpo non riesce a passare per entrare in casa piuttosto che in stanze in cui mi viene chiesto di entrare. Quindi insomma sogni, almeno questa, la seconda situazione, abbastanza faticosi. Dottoressa Capannelli, qui chi siamo non ha mai, ecco, il volo, situazioni opposte, ecco. Effettivamente, no? Avere un senso di libertà e di possibilità superiori a quelle che è la normalità, spiccare il volo, nuotare in aria, e quindi anche un grande senso di libertà, di capacità, e al tempo stesso invece all'opposto l'impossibilità di entrare in un luogo e fare fatica a passare attraverso. Certo, qui se noi andiamo sui significati simbolici ritorniamo un po' a quelle che sono le origini. Effettivamente Freud insisteva molto sul fatto che ci fossero dei legami con la sessualità infantile e con le nostre esperienze originarie, quindi la questione del tunnel è un altro di quegli elementi che ci riporta un po' al tema della nascita, per esempio. Professor Barbanti, ma ci dicono molto di noi i sogni, ma ci possono anche dare informazioni sulla nostra salute? Sì, certamente sì. Il sogno avviene durante una fase del sonno in cui madre natura ci ha paralizzato per evitare di viverlo e quindi ci fa stare da spettatori e non da protagonisti. C'è un disturbo chiamato disturbo comportamentale del sonno REM in cui noi sogniamo ma il corpo non è flaccido come deve essere e ci troviamo nella condizione di menare calci e pugni, veramente non spintoni ma atteggiamenti aggressivi e violenti, verso chi ci dorme vicino. È un caso frequente in soggetti anziani, può indicare iniziali malattie neurologiche. Se mi permette, Nicoletta, una breve cosa solo relativamente a quanto aveva detto Mirella: perché i sogni non li ricordiamo? Perché ci svegliamo al momento sbagliato. È stato calcolato che oltre gli 8 minuti dall'ultimo sonno REM che si presenta a cicli, noi dimentichiamo, o meglio non ricordiamo il sogno. E anche qui è molto bello, da un lato il valore forse inconscio, recondito, da nascondere, che è il contenuto onirico, dall'altro il nostro cervello che vive in maniera autarchica, isolata dall'esterno, e improvvisamente cancella, se non per una breve, lasciando un breve lasso di tempo, ciò che si è prodotto. Che sia motivo di ispirazione per il futuro, chi lo sa, certamente molto affascinante. Professor Barbanti, io ringrazio lei e la dottoressa Capannelli per essere intervenuti, per averci accompagnato in questo mondo misterioso che ci affascina, ci seduce, ci guida, ci suggerisce. Si dice che il sonno porti anche consiglio. Favorisce la creatività, professor Barbanti? Certamente sì, è straordinario pensare che Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Il posto delle fragole di Bergman e Yes dei Beatles siano frutto di un'attività onirica. Hanno confessato, chi poi ha scritto queste meravigliose cose, di averle concepite nel corso di un sogno. Quindi non è solo la vita che ispira il sogno ispira certamente la vita. Grazie a voi per averci seguito, grazie ai miei ospiti, a domani e mi raccomando, sognate. Essere e benessere.